impegnata a mantenerci in aria, con le gambe avanti, con le gambe indietro, con quel piede che ogni tanto va a cercare il suolo. È evidente che non siamo fatti per il volo, dileguarsi dalle prese della gravità e dell'aria che ci tira avanti, che ci tira indietro, che vuole scaraventarci in basso, lontano dal cielo, e noi con un sorriso acceso come contrappeso. Il paradiso apre l'accesso e qua non conta il peso, se ci arrivi è grazie a cosa ti ci spinge verso. Aprire gli occhi mentre sali e tenerli chiusi mentre fai l'inverso, con la sensazione di cadere in mezzo all'universo e rimbalzarci, ripetere i balzi, sempre un po' più alti, raggiungendo gli astri. Aprire le braccia ed incastrarci, sì, puntare verso Dio per poi rilasciare gli animi. Non è una metafora di vita, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è. Compensare questa innaturale voglia di volare con la condizione virtuale di vibrare. Non è una metafora di vita, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è. Compensare questa innaturale voglia di volare con la condizione virtuale di vibrare. Ciao cari. L'altalena è come la vita, alti e bassi. Una volta che cadi non ci resta che rialzarci e continuare a dondolarci, non importa quale sia la spinta. Fanno bene persino i calci. C'è chi oscilla quasi sdraiato, ti mette la testa nella traiettoria, o ti fermi o l'hai decapitato. Io mi sono fermato, ma chi non l'ha fatto mi sorvola. È questa cosa che mi rode un po', ma non mi tange, non mi frustra. Quell'energia che ti può dare la cultura è pop, che non si infrange, non si scruta. L'altalena va senza gettoni né biglietti, sali sopra i fatti finché riesci a farti trascinare dalle tue emozioni. Finché non si diventa grandi, lasciamo il posto ai nostri figli come genitori. Se non è una metafora di vita, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è. Compensare questa innaturale voglia di volare con la condizione virtuale di vibrare. Non è una metafora di vita, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è, dimmi tu cos'è. Compensare questa innaturale voglia di volare con la condizione virtuale di vibrare. Ciao Teo, qui ormai il progresso ha preso il potere, sono bravissimo. Ciao, buona serata. Hai cambiato telefono o ti sei cimentato in